gruppi in mezzo alla cartella, già tutto quanto non faccio nulla. Se non serve quello, passiamo in cavalleria e subito. Lo so, per questo c'ho tutto. E poi io sono comandante, come fa la fotocopia? Vabbè dai, che me ne vado a guardare un po' di televisione, cerco di addormentarmi fino a domani mattina alle 5. E poi, sull'allino, sull'allà. Vabbè dai, io mi cerco il cavolo di CD, la cartellina, che c'è un sacco di cartelle, e cerco quello lì. Va bene dai, ok, ma noi ci sentiamo. Salve Billy, salutoni. Aspetta. Fai, è molto bacco mesoane. Ciao Antonio, fine come sopra, ci sentiamo, state bene, buon proseguo, ciao. Attenzione Torino, mi senti? Scappa, chi è? Avanti. Ciao, sono sentito, sono già passato un tardi, Bruno, stavo ascoltando, però sono in una zona d'ombra, non sapevo se mi sentivi. Come non ti sento? Guarda che io sento tutti, anche i marziani quando parlano. Ciao Bruno, mi hai sentito? Scappa, salutone Bruno, no? Forte e chiaro qua. Ti piace la modulazione? Bella, bella, chiara, forte ma allo stesso tempo è niente, va bene, sì. Così devono essere, non siamo praticamente forte, ecco dove va bene. Sono appena 5 con volume, sto usando lo Shure, Bruno. Ah, lo Shure, buono lo Shure, io lo Shure dovrei avere la parte. Sono le 24, ma io il magazzino si è chiuso da tanto, però lo usavo, sì, ma no, allora io quello l'avevo tolto, la linea IESI per le 50B, pare che tu l'hai conosciuto. Scappa, il mio è quello grigio con volume, il pomello rosso, e davanti c'è una S rosso e poi Shure, e poi si alza la testina in su. Ma è quello che si solleva, sì, che si sollevava. Scappa, c'aveva uguale disco che c'è Franco Baltimora. No, ma il mio era grigio, sai chi ce l'aveva, uguale a mio? Ti ricordi Mario Bravo Charlie? Scappa, c'era anche io Bravo Charlie. La linea poi, chissà che fine fa, che lui aveva le FR 50 e vabbè, cose vecchie. Oh, saluto l'amico che stava parlando con te, il padre sta andando via. No, c'è Antonio che è qua ancora, c'è anche Manuele che sta andando via, Cicco. Ok, dai, mi metto l'amico, così continuate, tanto io sto facendo le zone alte. Aspetta, volevo fare una prova a tutto volume del come esce questo microfono, Bruno. Ecco, in questo passaggio, come mi senti? 1, 2, 3, prova di modulazione. E adesso sto sentendo. Troppo forte. Quindi va bene questo passaggio, dai. Scappa, guarda, puoi andare dove vuoi, io ti sento sempre. Non ne ho problemi, c'ho l'antenna nel tetto, quindi. Mi deve dare l'appuntamento che poi mi devo pagare. Ok, Antonio riprendi per culo l'uragano e ciao Manuel se sei con l'ascolto. Scappa Bruno, puoi andare dove vuoi, io ti sento sempre. Stasera per riuscire a salutare gli amici ho messo il baracchino in macchina, me ne sto salendo verso le 15, zona Lunettole Alta e sta zona le 15, così da lì mi sento meglio, sono sempre forte anche se vado sottoterra. Addirittura ti ringrazio. Non ricordi che mi sentivi un bel forte un giorno da sotto i parcheggi? Ma sei arrivato forte anche adesso, non è che sei arrivato tanto. Sì, poco fa non sono uscito, ero sotto i parcheggi. Ma però io non avrei mai creduto di poter essere qualcuno di sotto, e quindi sono in palazzo che si è fermato e che si deve fare le rampe per salire su. E lì stavo già ascoltando. Allora io non ho nessun tipo di problema, ma quando ho l'antenna sul tetto sento tutto, tutti e tutto. Ma io non ho messo l'antenna sul tetto, sono terminato da lui, che c'era ieri, lo faccio vedere sul tetto. Hanno fatto tutto giù. Adesso non so cosa fare. Ma anche per quel poco che riesco ad entrare in frequenza, mi pare che se ne vado in macchina, saluto gli amici, è tutto fatto. Vabbè, comunque, la stazione fissa è molto meglio. Molto meglio la stazione fissa. Io per esempio adesso sono coricato, ho un portatile, ho l'Intec Intec 520 Plus, si sente benissimo, funziona bene, troppo mi alto. Quando sono a letto ce l'ho lo stesso il baracchino. Io anche in casa, però ho una buera sul balcone e mi sento, però ho l'impressione che con questa turbo, infatti se non ti vuoi mettere una grande antenna, se si può salire su ti metti la, quella lì ti metti, guarda quanto imbatte, quanto pompa la cosa, la bombola. Una volta stato un successo magari ti hanno riaffumato, però il problema è che da noi sul tetto, ci sono, c'è un attico, no? Questo attico per poter salire sul tetto deve entrare in casa di questa gente, entra in casa sua e sull'attico, all'interno dell'attico c'è questa porta che sale sul tetto. Il problema non è salire una volta così, perché questo signore anche vicino deve anche salire per terra. Però il problema è che poi gli devo rompere le palle tutte le volte, siete portati di dove c'è dentro, l'antenna si muove. Io sto pensando che poi alla fine questi si romperanno le palle. Per cui la soluzione che sto pensando io è mettere un linearetto piccolino sulla boomerang a casa, tanto per farmi sentire un po' più forte, dai, mettere un linearetto sarebbe come aumentare l'antenna, dai. Io ti do un altro consiglio, fa una cosa, allora, mettiti un'antenna che funzioni bene, sempre definitiva. Io ti consiglio una Grazioli, anche senza radiale, è un'antenna che è robustissima e non c'è bisogno di manutenzione, tu la metti e non ci devi salire più, poi li fai bene tutto, vulcanizzi bene il PL, vulcanizzi bene quello che c'è e tu non ci sali più. Stavo pensando a una di quelle antenne, io una volta a Renzo, non so se l'avete conosciuto, io non l'avevo conosciuto, perché lui è dei miei tempi, allora c'era la Ringo aveva una specie di radialetto circolare alla base ed era un antennone lungo, e poi un'altra antenna che ho avuto era la Super Vegibus, che quella sia per gli anni ma erano abbastanza chiusi, non erano tipo una Grand Play, la Grand Play era, prendeva più vento, e i radialetti cadevano, c'era un casino, anche se ritengo che la Grand Play è stata una delle più grandi antenne che abbiamo inventato, perché quella la mettevi e sparava dappertutto, ed era piccola come antenna. Sì, vabbè, la Ringo non te la consiglio, ti consiglio un'antenna robusta, un'antenna che duri nel tempo. Quella lì è quella che ti posso consigliare perché è molto robusta, c'hai le cose in acciaio e cose, non prende ossidazione, dura nel tempo. Io non lo so, non mi fanno le balle così sul tempo, però l'unica soluzione che stavo pensando io è, siccome questa boomerang da 3 metri che ho io sul balcone, io penso che un linearetto da 100-200 watt di mantenga, per cui insomma, un po' di competenza te la dai, come mettere un'antenna sul tempo, una cosa che stavo pensando io. Vabbè, riprende, fai girare che c'è ancora Tonino. Tonino, ci sei ancora? Cappa, e che zona sei adesso? Sempre forte mi arrivi, non ho avuto nessun problema. Cappa, Bruno, dove sei arrivato? Adesso sono su, alle queste, su, un po' più su delle queste, dove c'è un piazzale lì, e adesso ho parcheggiato lì vicino. Arriva vicino, spero che non mi sparino, perché ne sono tutto qua, per gli altri. Di cavolo, sei sempre forte, non mi è cambiato nulla. Vabbè, quando abbiamo questo angolare, io già verso una zona forte, ancora, diciamo, non è solo. Forte mi senti tu, a me lì. Ma forte è chiaro, bella, bella conversazione, bella radio. Pulita, dai, molto forte, molto pulita. È l'Intec che c'ho, il portatile. Anche io sono. Allora, l'Intec ce l'ho a casa, perché ho questi due apparecchi, non a casa, ma questo è lo via. bene questa parete, però questa è per tutti quelli vecchi, questa avrà 30 anni, per quelli vecchi che ci sono. Dico che come l'interno, come elettronica, questo qui è simile al vecchio Tokaji 2024, quello là era molto forte. Sì. No, questo 20 anni non c'era, questo è recente, è moderno, ma ti dico che funziona benissimo, funziona. Veramente se, mi ha dato molte soddisfazioni. Ah, io quando ce l'ho a casa, è nuovo, me l'ho adatto, non dico CP, me l'ho venduto a buon prezzo, funziona bene. E, però c'è un fatto, abbiamo messo il microfono certificato. Non si adatta su quello apparecchio, perché quando sono lenti al minimo va bene, al minimo sembra che stia usando un microfono normale tipo questo, quando sono lenti appena volume è amplificato, allora comincia a fare casino, innesca e non siamo riusciti a farlo andare bene, un microfono palmare che abbiamo avuto questo qui nel nostro apparecchio. Infatti sto pensando che magari metto su un altro baracchino, magari funziona anche, sto pensando di metterlo su questo qua, perché probabilmente non lo si adatta, non è costruito, non so. Però è un peccato perché con quel microfono lì un pochettino mi avrebbero sentito la radio un po' più bella. Là. No, questo qua è coso, questo qua è, come si dice, questo è un portatile proprio. Questo qua, quello che c'è a casa, la faccio in pista, non so se avete peccato. Non lo so, ma portatevi già abbiamo avuto i tempi che furono quando abbiamo cominciato noi tanti anni fa, tanti no? Allora più che altro c'erano portatevi. Io ho cominciato col Tokai 506S, un Tokai portatile, era 6 canali, molto pesante, con un antennone lungo, e allora quella, poi avevo portato il pace, il centro ASA, poi avevo portato portatili che avevano pochi watt, perché allora non c'era porcheria in frequenza, non c'era uno strato, non c'era niente, sto parlando dei primi anni 70. Non c'era interferenze e se tu avevi un baracchino da un watt parlavi una ghiera, capito? Non era come oggi che la frequenza è sporca, ha bisogno che c'è sempre QRM, non esisteva il QRM a quel tempo, era proprio zero. Troppe apparecchiature strane ci sono adesso. No, questo è un portatile che è un po' particolare, c'ha l'accendisigari, c'ha il capo che si abita sotto, c'è una parte c'è l'accendisigari, una parte c'è antenna normale, dove può attaccare alla macchina o l'antenna del tetto. Io in questo caso c'ho un alimentatore con l'accendisigari e lo sto alimentando con quello. Sì, ma io c'ho un piccolo alimentatore a casa per l'Intec, il potenziometro, il potenziometro stabilizzato, come si dice, il potenziometro si è arrivato a 15 volte, io l'Intec lo sto alimentando a 13,8 e va bene, ma c'è un vecchio alimentatore della ZG che io penso, secondo me a 50 anni, perché era dei primi apparecchi portati perché avevo io a casa, figurati che ero minorenne quando la prima concessione era a nome di mio padre. Sì, lo so, adesso è un po' diversa la situazione. Sì, adesso è un peccato che c'è un po' che faccio molto serio, ma questo, perché quando entro non c'è nessuno, qualche volta avevo qualche amico e ne avevo preso un salto. Yeah. Una volta che sono arrivati i computer e i telefonini, questa parecchia chiaramente è messa da parte. E ti dico che quando io lavoravo, io viaggiavo, per lavoro, e a quei tempi io avevo il baracchino a macchina, tante volte mi è stato utile, allora non ce n'è un telefonino. E ti dico che molte volte il pavone è per ghiaccio, senza telefono rimanevi per strada, col baracchino facevi il ponte, chiamavi quell'amico chiamava l'altro amico, telefonava a casa, avete mia moglie che non riesco stanotte. Guarda, sembra una fesseria. La guardatina ha fatto delle cose bellissime. Ci posso credere, qualcuno voleva entrare. Mia moglie mi ha chiamato a mangiare, mi ha chiamato. Ok, ci sentiamo dopo, se è al limite, ok? Mi ha chiamato mia moglie. E io qui, c'è qualche altro per salutare, dopo di te anche io. Ciao, ci sentiamo. Ciao Tonino, ciao, l'ascolto. Gabba, sono di qua, di nuovo l'ascolto, posso anche parlare ancora con te. Poi Gabba, io mi muovo. Sono scappato da casa perché preparo la signora. Ciao, ciao. A casa, oggi io non ne ho voglia, però che tirmi però. Vabbè, ci sentiamo, dai, faccio un giro per il canale e poi chiudo. Ciao a tutti. Ciao, ok, d'accordo Bruno, stammi bene e buona passeggiata. Ciao, Bruno.